È con molto piacere che questa sera registriamo, non siamo in diretta in questo caso anche per questioni di una certa lontananza geografica. Siamo con Marco Bechis, che è l'autore di un libro uscito da poco, il 25 marzo, che si chiama, che si intitola La solitudine del sovversivo. Marco Bechis l'ha scritto per Guanda, il libro costa 18 euro ed è un volume di oltre 300 pagine, 340 pagine circa. Marco Bechis però non è soltanto uno scrittore, Marco Bechis è soprattutto un regista, uno sceneggiatore, un produttore che è nato in America Latina, a Santiago del Cile, e poi di fatto ha fatto un po' peregrinato per il mondo per poi dividersi tra Milano, tra l'Italia, diciamo, e l'Argentina. Ed è proprio in Argentina che il suo romanzo si ambienta, perché è un romanzo autobiografico. Di questo però chiediamo subito a lui di raccontarci un po' come parte e di cosa parla La solitudine del sovversivo. Buonasera, Marco. Buonasera a voi, dall'Uruguay, un altro emisfero. Cosa parla? Beh, parla di tante cose, parla di uno spezzone grosso della mia vita che ho voluto raccontare nei dettagli per tentare di districare in qualche modo una serie di domande che mi sono sempre fatto nella mia vita e che forse non hanno risposta, ma almeno poste come domanda suggeriscono dei ragionamenti, ecco. È un libro che si pone molte domande e dà pochissime risposte. È nato, diciamo, il libro 10 anni fa circa nella mia testa, quando sono andato a testimoniare in Argentina per i fatti avvenuti ormai 45 anni fa in Argentina. Sono stato brevemente in un campo di concentramento come quello che poi ho ricostruito in Garage Olimpo. E che poi insomma, questa testimonianza in tribunale mi ha permesso di riflettere su cosa vuol dire la giustizia, cosa lo era per me, cosa era per gli altri. Mi sono trovato anche di fronte ai carcerieri e torturatori che avevo incontrato in quella vicenda precedente. Quindi l'idea del libro è nata in quel contesto lì, qui 10 anni fa, in un'aula di un tribunale in Argentina. Però il libro ripercorre la mia vicenda di militante politico negli anni 70, quando avevo 20 anni, la trasformazione della politica in quegli anni in qualcos'altro che allora non capivamo cosa fosse, a fine degli anni 70, inizio degli anni 80, il famoso riflusso. Insomma, si raccontano tante cose in questo libro perché sono parte della mia biografia. In effetti il libro, come ce lo stavi raccontando, ha una forma come se avesse due tempi, in realtà tre tempi, però c'è un grande nucleo iniziale di quasi 200 pagine dove tu racconti effettivamente il momento in cui tu vieni sequestrato, prelevato, portato dai tuoi torturatori, dai macellai in quello che poi sarà le carceri segrete, e c'è tutta l'evoluzione della prigionia che appunto finisce bene, finisce bene, finisce con la tua liberazione, dopo però lunghe traversie, e poi c'è una seconda parte, che è una parte di carattere processuale, dove appunto racconti la testimonianza, racconti anche come hai rielaborato in maniera artistica la tua carcerazione attraverso tutta una serie di film, da Garage Olimpo del 99, ma anche successivamente hai raccontato l'Argentina e Desaparecidos in altri film. A un certo punto, e mi spiace doverlo ripetere perché l'hai già raccontato a un'altra radio, a Radio 3, ma c'è un passaggio molto, molto forte e molto drammatico del tuo libro, cioè quando tu atterri in Italia e di fatto due carabinieri ti vengono a prendere. Cosa succede in quel momento? Ma succede che io arrivo in volo all'Italia dall'Argentina, ormai espulso, quindi ero già in territorio libero, perché l'Italia, all'Italia, un volo all'Italia è già Italia, e scendendo a Roma per prendere poi la coincidenza per Milano, perché abitavano a Milano i miei genitori che mi attendevano, invece di fare la trafila normale che fanno tutti i passeggeri che entrano nell'aeroporto e vanno a cercarsi l'uscita transiti. C'era una camionetta di carabinieri che chiedeva il mio nome, diceva Bechis Bechis, ho detto sono io, ho l'accompagniamo noi al volo nazionale. Era una premura, evidentemente, il Ministero degli Interni, che era a quei tempi comandato da Giulio Andreotti, perché di fatto l'Italia non aveva fatto nulla per la mia liberazione, come racconto nel libro, ma evidentemente volevano fare un minimo di bella figura almeno in aeroporto. Nel tragitto in camionetta dei carabinieri da un aereo all'altro, i due giovani carabinieri mi hanno chiesto, hanno visto scendere da un aereo un ragazzo di 20 anni, pelato, rapato a zero, senza bagagli, con un passaporto in mano, e quindi mi hanno fatto delle domande: da dove vieni, chi sei? E io nel tragitto tra un aereo e l'altro sono riuscito a raccontare quasi tutto quello che mi è successo, le parti salienti, insomma, dicendo della tortura, dicendo, diciamo, della prigionia e nelle carceri sotterranee, delle catene alle caviglie, della benda negli occhi, sugli occhi. E uno dei due carabinieri mi ha guardato e ha detto: beh, lì laggiù sì che fanno sul serio. Quindi stiamo parlando di luglio del 1977, io tre mesi dopo sono andato a un famoso raduno a Bologna del movimento, in cui c'era uno scontro, se vogliamo, ideologico, che poi è diventato anche uno scontro fisico in alcune battute di quella grande manifestazione, tra l'autonomia e i movimenti di estrema sinistra. Cioè si voleva decidere che direzione doveva prendere l'intero movimento. Alcuni erano per la lotta armata e altri continuare la lotta nel movimento. Quindi diciamo che erano quegli anni lì di scontro, ed è stato paradossale quella battuta del carabiniere, perché in qualche modo io ero partito dall'Argentina, scortato da dei militari in divisa e da un funzionario militare dell'aeroporto, e sono arrivato in Italia e due carabinieri italiani mi hanno prelevato per poi ricordarmi che tutto il mondo era uguale, che si ragionava in quel momento nella stessa maniera, in piena guerra fredda, gli apparati, diciamo, di polizia, sia che in Italia che in Argentina, avevano una forma mentis che non era diversa, no? non aveva nessuna differenza. Marco, leggendo il suo libro, secondo me uno si aggrappa a due grandi filoni narrativi, anche se il tuo libro anomalo, con una forma strana, anche abbiamo discusso di questa bipartizione del romanzo, soprattutto la seconda parte diventa quasi anche un racconto delle riprese, di come sono stati effettuati i film sulla tua storia, ci sono anche degli appunti, degli schemi, dei disegni, ma se dovessimo incasellare, non è che vogliamo farlo, ma se volessimo incasellare la solitudine del sovversivo in macro filoni, mi tende a pensare che in un caso si tratta appunto della narrazione della prigionia, no? Quel tipo di narrazione che ha tradizioni anche risorgimentali, cioè bellico, oppure tradizioni di Gramsci, ma anche quelle del romanzo americano con Bunker, quindi tutto quel filone del cos'è il carcere, cosa significa resistere al carcere. E poi c'è anche una seconda narrazione, che secondo me è la narrazione della sopravvivenza, anche perché mi sembra che sia un romanzo dove tu sei doppiamente sopravvissuto. Tu racconti una tragedia familiare, la perdita di un fratello, e lo stare là in carcere, a un certo punto del romanzo dici: io dovevo sopravvivere anche per i miei genitori. Qual è stato il limite, il confine sottile fra l'autobiografia, appunto, fra la spinta diaristica nel raccontare questa prigione e questo essere sopravvissuto, e invece la parte, diciamo, più artigianale, artistica? Come sei riuscito a trovare una misura? Ma non è stato difficile, perché di fatto una cosa è concatenata nell'altra, nella mia percezione dei fatti, no? Perché quando succede un fatto del genere a 20 anni, che gli possiamo definire una catastrofe, l'evento catastrofico della propria vita, ma se ce n'è stato anche prima anche qualche altro, come la perdita di tuo fratello, le due cose per forza incominciano a dialogare. E in quel momento c'è un prima e un dopo, quindi la mia vita me la raccontavo a 20 anni, fino a quel momento, fino al momento del sequestro, in un modo. Poi dopo il sequestro mi sono dovuto incominciare ho dovuto incominciare a raccontarmi in un altro modo, a cercare di capire come ero arrivato lì, come ero arrivato a questa catastrofe. Quindi ho dovuto ripercorrere anche la morte di mio fratello e quello che aveva significato per i miei genitori e per me, perché avevo 9 anni. Quindi questi due piani che tu definisci come due piani paralleli di narrazione, che pensi che sia una mia abilità averli uniti in questo modo, in realtà sono venuti fuori così insieme, perché sono uno parte dell'altro, uno dialoga con l'altro. Non so se mi sono spiegato. Ti sei abbondantemente spiegato, senz'altro. Non so se anche Andrea volesse farti una domanda. Certo. Sì, io sono rimasto colpito da come alcune descrizioni di oggetti che fa Marco Bechis diventino oggetti letterari, soprattutto per come riesce a spiegare come i suoi torturatori riuscissero a pensare nei minimi dettagli agli strumenti di tortura e nel come Marco ce li restituisce, come ad esempio le bende per gli occhi che diventano delle armi e che vengono raccontate anche quelle nei minimi dettagli, così come erano state create dai suoi torturatori. L'altro elemento è poi relativo proprio alla lingua, che non è solamente la lingua del reportage, ma è la lingua anche letteraria. Come ad esempio il momento in cui Marco è all'interno della cella, sembra un po' sentire Raskolnikov quando si chiede: ma io sono come un insetto Napoleone? Perché a un certo punto Marco si chiede: chi sono io qui e ora? Sono un eroe o un traditore? Ecco, volevo chiedere a Marco Bechis com'era stato il passaggio da regista a scrittore. E questo che tu mi stai dando per me è una notizia, cioè che tutto questo che hai descritto sia diventato materia letteraria è una notizia, non era una mia deliberata intenzione, perché io mi sono posto alla scrittura di questo libro come una mia opera, sicuramente autobiografica, ma mi sono discostato il più possibile dall'idea di scrivere, come dire, un grande romanzo. Perché? Perché non sono un romanziere, non sono uno scrittore e non credo che io scriverò molti altri libri. Non mai dire mai, ma certamente non inizierò questa carriera. Vorrei fare molti altri film, questo sì, se troverò i finanziamenti, visto che questo è il problema per noi autori, che siamo autori e non siamo dentro il mainstream. Ora, per scriverlo ho avuto varie fasi. Per esempio, ho capito subito che la terza persona, se avessi parlato di un tal Mario, non di me, in terza persona, come si fa nei romanzi classici, Mario Rivarola, che gli capitavano le stesse cose che capitano a me, che sono capitate a me, ma però in terza persona, sarei entrato nel lagone del romanzo classico, mi sarei dovuto confrontare con tutto quello che esiste già, che anche alcune delle cose che avete anche citato voi, diciamo di memorialistica eccetera, che usava questo meccanismo narrativo. Ora, mi sono detto che lo dovevo scrivere in prima persona. Marco Bechis non può esimersi da parlare di queste cose e di scrivere queste cose in prima persona. Poi c'è stata la questione del tempo, perché poteva essere un Marco Bechis di 40 anni fa che racconta che è stato in un carcere, eccetera, eccetera. E anche lì ho dovuto fare una scelta e ho deciso di farlo in prima persona. Mi sono detto, quanto più limiti linguistici io mi do, meglio rendo, perché così funziona anche per me il cinema. Quanti più limiti ho, riesco meglio a fare delle scene. Se avessi, che ne so, 2 mesi per girare un film, probabilmente 2 mesi, 2 anni per girare un film, probabilmente sarebbe peggiore che un film per il quale ho 7 settimane. Perché? Perché mi perderei, perché girerei cose inutili che poi dovrei montare, farei una serie di iperboli che poi forse erano assolutamente inutili, a parte di sprecare molte energie, nel caso del cinema molti soldi. Nel caso della scrittura il problema non si poneva, perché a scrivere ero io, il costo era quello dell'elettricità del computer e null'altro. Ma sapendo che nei limiti sta la mia forza, mi sono dovuto dare questi limiti letterari. Quindi per me mi fa moltissimo piacere che tu, Andrea, mi dica che trovi letteratura quello che ho scritto, Ma non era la mia intenzione, cioè aspiravo certamente a fare qualcosa di buono, ma non avevo gli strumenti per poterlo sapere a priori, no? Uno scrittore quando scrive sa che sta scrivendo letteratura perché ha scritto altri libri, lo hanno già riconosciuto e continua la sua carriera. Nel mio caso è il primo libro che scrivo. Quindi per me è un'epifania totale e questi vostri feedback sono i primi che mi arrivano dal di dentro della scrittura, perché ho ricevuto da altri, anche in altre interviste, molte note sulla storia e sul mio coinvolgimento in questa storia, però adesso, questa è la prima volta in cui cominciamo a parlare della lingua, della narrazione, della tecnica, con cui è stato scritto il libro.